Quindi se volete la verità, andate dentro voi stessi, amici, perché quello è l'unico posto dove troverete mai la verità vera. Da noi non potrete ottenere mai la verità. Vi diremo tutto quello che volete sentire mentendo senza vergogna. Noi vi diremo qualsiasi cazzata vogliate sentire. Quattro mattino di Alessandro Milan. Alessandro Milan è una gloria radiofonica. Vi siete liberati di Marino per quattro tagliatelle e uno scontrino. Sono stato sfangulato in poche ore e adesso vi beccate le lezioni. Marino, Marino, Marino, la visa ora devo mollar. Le cene con moglie e cugino, adesso mi tocca pagar. Oh mia bella Roma, torno ad operare, per gli Alemanno e mafia capital. Solo mi dispiace per le rastrelliere, se mi dà bel quartiere, ancora da montare. Innamorato di Marina, una ragazza mora ma carina. Da segretario del PD, non lo so se si è rotto qualcosa tra il PD e Marino. Forse quello che si è rotto è tra l'amministrazione e la città, più che con il PD. Un giorno la incontrai sola sola. Però Marino ha ancora 20 giorni per decidere. Sarebbe la follia. Vado io in ufficio con lo scotch e lo porto via io di peso. Io credo che se c'è una cosa sicura è che non posso essere io a scegliere il sindaco, perché dice, ah, tu devi scegliere il segretario. Se siamo il partito delle primarie, i romani sceglieranno. Stiano attenti, però. Marina, Marina, Marina, ti vola più presto. State attenti, dice Renzi, state attenti questa volta. Forse anch'io so cosa si è rotto per gli italiani. Come diceva Renzi, forse anche io ho un sospetto di che cosa potrebbe essersi rotto negli italiani. O rotti negli italiani. Cari italiani, buongiorno, sono le 6:32 minuti, questa è 24 mattino. Salvini cos'è che fa? Va a tirarlo fuori Marino praticamente con lo scotch. Perché con lo scotch? Pensavo con una ruspa, un qualcosa di un po' più rude, un po' più salviniano. Però Marino ha ancora 20 giorni per decidere. Lo scotch. Sarebbe la follia. Vado io in ufficio con lo scotch e lo porto via io di peso. Ah, cioè mette lo scotch a Marino, lo scoccia così, lo impacchetta su e via. Se lo porta via. Va bene, potrebbe essere una soluzione, ma state sereni, come direbbe qualcuno più celebre di me. Pare che Marino oggi proprio si dimetta, nel senso che formalizzi le dimissioni, dopodiché partono i 20 giorni, anche perché ormai l'ha detto il Vaticano. Ragazzi, ma qui ormai il Vaticano, racconta Repubblica, ha detto basta Marino, quando andrà via Marino torneremo a dialogare. Il Vaticano. Evviva lo Stato laico! Cardinal Vallini ha detto la sua, eh? Allora è tutto un fiorire di ironie, di canti. Crozza che canta Marino, Marino, Marino. E va bene così. Allora saluto Lorenzo Nespoli in redazione, il nostro Peter Bescapè in regia. Voglio subito convocare il nostro amico del lunedì, Federico Novella. Eccoci, buongiorno. Che è in tangenziale, credo. Sì, sono in tangenziale, no? Direzione Mediaset. Esatto, direzione Mediaset. Buon lunedì a tutti. Bene, stai andando ad aprire la sbarra di Mediaset, perché mattino 5 alle 9 tutto pronto. 5 alle 9, tra l'altro ci sarà proprio l'uomo dello scotch Marino stasera. Ah, no. No, Salvini. Ah, ci sarà Salvini. Mentre guai, ti presento un grandissimo ritorno. Sai chi c'è, Federico Novella, con chi te? C'è? È un grandissimo, torna il nostro Antonio Di Pietro. Come sta Antonio Di Pietro? Buongiorno a tutti e buongiorno anche a chi si deve sacrificare il tangenziale. Ah, vabbè, ci sono sacrifici peggiori, adesso. Ma io l'ho fatto per tanti anni, è dura la tangenziale di Milano, o peggio il grande raccordo anulare di Pietro? No, io ho fatto quella di Milano e credimi, se ne vogliono delle accordo per sistemare. Vabbè. Le dura, lo dica così Di Pietro, l'era dura. Perché bisogna poi capire, ma allora si candida a sindaco di Milano? Tutte le volte gliela faccio questa domanda, no? Sindaco di Milano, Antonio Di Pietro. Ma ti candida a sindaco di Roma, che va bene per tutte le stagioni. Appunto, se candida a Roma a questo punto, si candida a sindaco. Si è liberato un posto a Roma. Si è liberato un posto, un posto da sindaco. Anche lui, il milanese, invece, come dice, fatela a Roma, cammina. Esatto, vabbè. A Milano dice mi candido a Roma e a Roma dice mi candido a Milano. Vabbè, non si sa. Allora... Si sa benissimo che, voglio dire, al di là delle parole, per candidarsi seriamente senza fare il pagliaccio, metti Milano, Roma, Napoli e quant'altro, c'è bisogno di una forza organizzativa, di una realtà logistica, di un impegno finanziario e di tante teste che poi ti devono aiutare sia durante la campagna elettorale ma soprattutto nei 5 anni di amministrazione. Sotto questo aspetto, quando qualcuno dice che bisogna che ci siano politici, sì, ma non improvvisati, anche dei manager che sanno che cosa fare, non è che è sbagliato. Insomma, no, non si cambia. Quindi no. Ma ci mancherebbe. Dove vado? Voglio dire, io appena ho detto l'anno scorso, mi candido. Io a Milano sono disponibile, perché adesso dite quello che vi pare, ma a Milano ne ho conosciuto patologie e fisiologia. La prima cosa, si è alzato prima in... Io non parlo del centrodestra, che io sono stato sempre dall'altra parte, quindi voglio dire, non è che è così masochista il centrodestra. Il primo PD no, di Pietro Mai. Stelle, no, di Pietro Mai. A lei piacerebbe diventare sindaco, però non lo spalleggia. Io ho dato a suo tempo, ho dato la mia disponibilità, non a Mova di Milano, Roma, Giovanni e San Benedetto Rotondo. Sì. la Padre Pio l'ho data a Milano perché c'era una logica e c'era però... ho visto che a nessuno è venuta la voglia di dire costruiamo insieme qualche cosa Di Pietro. E allora io devo avere l'umiltà e la responsabilità di dire pazienza. Allora niente, però glielo richiederò, tanto voglio dire, sanno i giornalisti così, io, man mano che ci avviciniamo magari uno cambia idea, glielo richiederemo. Perché cambio idea? Dovrebbe cambiare idea. Vabbè, chi lo sa, magari cambia idea. Intanto apriamo il Parlamento, dai, apriamo il Parlamento. Ebbene sì. Adesso vado a prendere un caffè, quindi semmai ci vediamo più tardi. Però qui c'è da parlare di Marino, perché qua sindaci che arrivano e sindaci che se ne vanno. Già. Sei affranto, Federico? No, figuriamoci, oggi se ne va. Tra l'altro però se ne va, però io non sarei così sicuro che poi non si ripresenta, non rientra dalla finestra, attenzione. Chissà. Perché potrebbe fare una sua lista quando si va a votare. Sì. Con tutti i suoi ministri. Quella è rientrata dalla porta. Se lo votano sì, però rientra dalla finestra. Perché Di Pietro ci sta dicendo che è stato cacciato in malo modo? È stato cacciato e calci da sedere sicuramente. I calci poi lui, io credo che una di quelle poche persone che se guardate lo specchio se ne è dati da solo pure. Questo sì. Resta il fatto però che da che pulpito viene la predica? Ed in questo senso, se vale l'equazione che Marino, per quel che ha fatto e per come si è comportato, non deve fare l'amministratore, io credo che una verifica così come fatta a Marina debba essere fatta a tutti quanti, a tutti, compreso al sindaco Renzi, al sindaco provincia Renzi. Sì, perché sono usciti sul Fatto Quotidiano, Federico, ieri c'è un ristoratore di Firenze che dice veniva qua, pranzava con la moglie. Tra l'altro posso dire una cosa? Sì. Io ho letto tutte queste interviste ai ristoratori che dicono sì, è venuto quel giorno, a quell'ora, con i figli, con la moglie. Io non andrò mai a mangiare in quei ristoranti, se so che c'è il ristoratore che poi telefona al giornale e dice: ma Federico Novella sì, è venuto, ha mangiato, è venuto con chi? È venuto con chi? Ha preso un branzino. Ma perché non mi fanno gli affari loro? Nuovo lavoro il ristoratore, come definirlo? Il ristoratore spia, diciamo. Il ristoratore spia, Di Pietro, quante volte è andato dai ristoratori a dimmi un po' chi è venuto qua a mangiare, dimmi un po', perché io tintinnio delle manette, devo dire la verità, tintinnio delle posate, tempi miei, tutti ci dicevano che noi eravamo manettari, ma ai tempi miei volavamo un po' più alto, devo dire la verità, noi partivamo dal conto all'estero di qualche migliantino di euro, e qui invece si arriva da Gigi il troione e gli si chiede, d'altronde che sia una troiata la politica di oggi. No, Di Pietro, perché solo quella di oggi? Quelli di ieri, insomma, erano professionisti delle troiate. Io ricordo un uomo del governo che a un certo punto gli portarono la mazzetta alle 7 di mattina perché uno doveva andare a caccia e quindi si presentava sotto la porta alle 7 di mattina e gli ha detto: ma come si permette di svegliare la servitù a quest'ora? Ripassi un altro giorno. No, con la mazzetta, con la mazzetta. Ma come si permette? E chi era questo gentiluomo? Io faccio il ristoratore, non fa mica il ristoratore, Di Pietro. Ma dica se era un imprenditore, un ministro. No, un uomo di governo, ha detto. Un uomo di governo. Sì. Ma un ministro proprio. Sì, a verbale. Ma un ministro? Era un ministro. Vabbè, ma allora se a verbale ce lo dica, se lo ricorda, ne chi era? Annaggia, con l'Alzheimer. Ormai è storia patria, niente. Non ce lo dice, ma adesso glielo storceremo con uno dei suoi interrogatori. Novella, non ti preoccupare, adesso andiamo avanti, poi dopo basta che mi portate al ristorante che lì si spippera tutto. Vabbè. Sentite qui però Crozza da Marino sulla battuta sull'ambasciatore del Vietnam. Questa è straordinaria, sapete che c'è l'ambasciatore del Vietnam che ha smentito Marino, non ho cenato con lui, sentite Crozza. Io ero a cena con l'ambasciatore del Vietnam. No, ecco, veramente l'ambasciatore smentisce e il ristoratore dice che lei era con sua moglie. Mia moglie è l'ambasciatore del Vietnam? No. Non me l'ha mai detto in tanti anni di matrimonio. Io non me ne sono mai accorto. Eccolo lì. Non male. L'ambasciatore del Vietnam. Ti presta bene allo scherzo. Esatto. Marino. Però allora, i sondaggi dicono che se si presenta, l'ho letto oggi sulla stampa, potrebbe ottenere l'8%, che non è granché, però insomma, un 8%. Non è neanche poco. Cos'è? Che secondo me, cioè, molte persone a Roma hanno riconosciuto che Marino non è stato in grado di gestire bene la città, è stato ingenuo, è stato maldestro con la storia degli scontrini, però non è un ladro patentato, uno che ti fa il giochino sugli scontrini. Sì. I ladri patentati a Roma forse sono arrivati prima di Marino, sono stati altri, spero che i romani abbiano saputo distinguere. Quindi l'attaccamento nei confronti di Marino, forse un po' di solidarietà l'ha generata. Ma infatti no? La solidarietà c'è stata, però vorrei capire Di Pietro, il magistrato Di Pietro, ma si può per 20.000 euro, forse meno, 3-4 cene, due scontrini, dire che è un farabutto, un sindaco? Ma infatti il concetto è questo, sul piano tecnico giuridico tu puoi rubare pure la caramella sul supermercato, anzi in genere a quelli che si fanno 3 anni di galera, sul piano tecnico giuridico. La questione è un'altra ed è che a Marino, al sistema politico romano, soprattutto al PD, non è andato giù il fatto che Marino un po' fa a testa sua ed un po' sta tra le nuvole, anzi un bel po' sta tra le nuvole, e non rispondeva al sistema che volevano loro, e in questo senso ogni cosettina l'hanno fatta diventare la luna. Io personalmente, io perché esprimo un po' di solidarietà nei confronti di Marino dicendogli che non si doveva dimettere ieri, ma si doveva dimettere 3 mesi fa. Bella solidarietà. Lo so, però voglio dire, quando uno si trova in una situazione in cui in realtà chi ne soffre è la città, non è che può pensare ai calcoli suoi. Deve pensare all'interesse della città, dopodiché si può ricandidare, a mio avviso se si ricandida fa bene, perché a questo punto il voto democratico del romano dirà se è meglio tenersi il Marino o meglio tenersi un un nuovo alemanno piuttosto che un personaggio che frega di giorno e frega di notte, perché anche questo poi sta facendo. Il colpo di grazia si è dato da solo Marino quando ha restituito 20.000 euro, perché sì, lei ha mai, cioè Di Pietro non avrà mai visto, penso, uno che restituisce, forse qualche volta sì, qualcuno che restituisce. Sì, però restituire è una missione di colpa, voglio restituire dire. Restituire è una missione di colpa, e questo agli occhi degli italiani. La restituzione viene vista nel sistema processuale come azione antigenerica, cioè vuol dire che l'ho fatta e dammi una pena. Comunque sì, chissà se si ricandida. C'è da dire che ieri sono scesi in piazza, perché adesso in Italia è così, quelli che difendono Marino all'urlo di non mollare mai. Insomma, si è sentito anche Bella Ciao. Marino a un certo punto è apparso anche un po' in lacrime. Vabbè, fa parte un po' la sceneggiata napoletana, questa no, la sceneggiata romana, la sceneggiata romana. No, va bene, dai, c'è pure le pizze, c'è. No, chissà, però forse si vuole ricandidare adesso. Sì, Renzi ha detto, ripetere, io personalmente dovrebbe ricandidarsi. Se si ricandida, voglio dire, in democrazia si usa fare così. Ho capito, ma se si ricandida, certo non potrà mai essere eletto. Cioè, lo fa per che cosa? Per togliere un po' di voti? È una ripicca. Vabbè, voglio dire, è una ripicca sicuramente. Io personalmente sono dell'idea che quando uno ha a che fare con la giustizia, prima vada alla giustizia e poi si promuove come politico. Ma applicando questa regola, voglio dire, è difficile andare a trovare chi ti può candidare all'interno dei partiti. No, è chiaro. Applicando questa regola, quanti politici dovrebbero portarci gli scontrini dei vini da 80 euro che hanno pagato con Ma io quello, in tutti i partiti. Io mi auguro che l'autorità giudiziaria faccia come ha fatto con i consiglieri regionali l'anno scorso. Vi ricordate, a un certo punto sono scattate le inchieste su tutti i consigli regionali per vedere che ci facevano i soldi i gruppi, a centinaia sono andati in galera e li stanno condannando tutti e stanno restituendo i soldi. Mi pare che quello sia stato un'operazione nel suo complesso che ha riportato un po' di trasparenza a quel sistema di approfittamento apparentemente. Ne ha presi anche alcuni del suo ex partito, E ha fatto bene. Comunque, Alessandro, io voglio sapere il nome del ministro. Guarda, adesso andiamo al traffico, perché poi Di Pietro ci deve fare un nome, ce lo farà tra poco, un ex politico, ex ministro, vecchi governi, uno che gli ha portato la mazzetta alle 7 del mattino e ha detto e che svergognati, me li porta come vi permettete così presto, ripassate domani o dopodomani, un po' più tardi, A Milan, io voglio sentire il traffico! Autostrada Pedemontana, la prima e unica senza caselli. Scoprila su pedemontana.com. Vi presenta. Cari politici che volete la poltrona di Roma, mettetevi le mutande di ghisa, che le punte delle stelle fanno male. Ciao Milan. Roma divina, a te sul Campidoglio, dove eterno verdeggia il sacro alloro, a te nostra fortezza e nostro orgoglio, ascende il coro. Tutti in galera! Uè Milan, buongiorno! Secondo me il prossimo candidato a sindaco a Roma si chiama Antonio La Trippa. È quello che ti dà qualcosa e non ti cerca niente. Evviva l'Italia! Buongiorno Milan, volevo dirle, l'ho vista in video, visto che è biondo, ma lei non ha la voce da biondo, sarà certamente ossigenato. No, non sono mesciato, ossigenato, sono fatto così. Mamma ha fatto così, che devo fare, caro ascoltatore? Sono la voce da biondo, Federico Novella, questa non è male, è biondo. La voce da biondo. Hai il tipico timbro da ossigenato, diciamolo, dai. Rivelazioni stamattina. A proposito di rivelazioni, Antonio Di Pietro, chi era quel ministro che è svegliato molto presto? Con una mazzetta disse ripassi più tardi grazie. Secondo me fa finta niente, un democristiano. Ripete la domanda come nei quiz di Gerry Scotti, no, e fa finta di niente. Ripassi più tardi che te lo dico, ecco, va bene. Novella, abbiamo ancora 4 minuti per estorcere un nome, adesso vedremo di fare qualche altra imboscata. Allora, intanto Renzi e Berlusconi Berlusconi non si vedono più. Renzi ieri è andato da Fabio Fazio, qualcuno dice deve recuperare proprio una certa sinistra, il pubblico di sinistra, a far vedere che fa le primarie, insomma, in questo momento sia a Roma che a Milano, e però è disperato perché non sente più Berlusconi, è disperato. Berlusconi lei lo sente ancora? No, non mi parla più, è arrabbiato con me. E io, come lei immagina, non ci dormo più la notte. Sa che non ho mai trovato una sua foto con Berlusconi? Mai vista, non si è mai fatto fotografare insieme, non c'è una foto insieme. Gli chiederò se si fa un selfie la prossima volta. Eccolo qua. Vai, un selfie. Sì, questo, però adesso, a parte le battute, sì, fin quando le facciamo noi alle 6:30 mattina per svegliarci d'accordo, ma che un presidente del Consiglio si metta a dialogare in questo modo con l'interlocutore di fronte a tutti gli italiani, trattando leader di altri partiti in questo modo, cioè quest'area di sufficienza, strafottenza, menefreghismo. Io personalmente tra i due non so chi buttare dalla torre, perché attenzione, Di Pietro che salva Berlusconi. No, non salvo Berlusconi. Ho detto chi buttare prima. Non che Berlusconi poi avesse un carattere molto più dimesso di Renzi. Quello che non condivido di Renzi è questa strafottenza che dice ogni giorno, se voi fateci caso, io l'ho detto anche l'altro, fateci caso, ogni volta che parla lui parla sempre al futuro, farò, dirò, domani, e quel che dice che ha fatto, se uno va a vedere quel che ha fatto, è sempre un disastro. E quindi sto fatto che lui parla di un'Italia che siamo belli, siamo felici, tutti gli italiani stanno da Dio, ma ci siamo andati mai in mezzo alle strade, vedete come stanno, lo storytelling. Vedi che sta venendo fuori il futuro sindaco di Milano, vedi già pronto fuori, o di Napoli o di Roma adesso, o di Roma. No, sai cosa sia, hanno litigato perché sai come no, storia del Presidente della Repubblica. Al di là che avranno litigato e quelli che hanno litigato, tu Presidente del Consiglio parla di quelle che sai fare e che non sai fare tu. Non di quello che farai. Cioè, voglio dire, per fare quelle battute lasciaci Crozza che sta meglio di te. No, però questo rapporto Berlusconi-Renzi è interessante. Novella, tu adesso stai attento perché la sbarra si è già aperta a Mediaset. La sbarra si è aperta, sì. Miracolo si è ripetuto. Puoi dire tutto. Quindi ma sì, avranno litigato, Berlusconi avrà messo un po' il broncio per la storia del Presidente della Repubblica ancora. Però alla fine, qualche giorno fa, Forza Italia ha salvato il Partito Democratico nelle votazioni per le riforme. Quindi sì, è vero, litigato, ma forse non così tanto, diciamo. Però attenzione, che più che Forza Italia lì Berlusconi deve dire chi la fa se l'aspetti, lui se comprate qualche scilipoti di turno, ma se ne ritrova, tanti altri scilipoti l'hanno fregato, mi mancavano un po' i proverbi mancavano un po'. Manca anche questo, noi dobbiamo chiudere Di Pietro, no, allora mi dovete capire perché quando lui l'ha fatto e lo poteva fare e diceva che era una cosa nobile, adesso è una cosa ignobile. È ignobile. Come ignobile quel comportamento di quell'ex ministro, caro Di Pietro, che era che si chiamava, voleva dare fastidio, capisci, perché era troppo ma presto. Chi era? Sì, che si chiamava si chiamava mannaggia, credo così, questo era il nome e il cognome. Va bene, vi ringrazio Antonio Di Pietro, Federico Novella, che ritrovate alle 20, alle 24, alle 9 su Mattino 5, c'è Salvini. Va bene, dai, alla prossima, vi ringrazio. Volete dire la vostra? 02 4652 4492. Chiamateci e parlate con la segreteria telefonica di 24 Mattino. 02 4652 4492. E ricordate, Alessandro Milan vi ascolta. Il segnale orario vi è offerto da Logisticamente Modul Block, dal più piccolo magazzino semplice o automatico al più complesso centro logistico. Smau ti aspetta a Milano 21-23 ottobre, Fiera Milano City, smau.it. Vi presenta 1, 2, 3. Adesso tra poco ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 Mattino. Siamo qui allora, cari italiani, alle 7:16 ed è il giorno in cui si apre la 128esima settimana decisiva per l'abolizione delle province. Decisiva forse. Eccoci qui. Allora, oggi torneremo a parlare del dopo Roma insieme a Oscar Giannino dalle 8:15. Il dopo Roma, che succede? Marino si è dimesso, Marino forse si ricandida, Marino resisti, Renzi che è andato in TV a dire non sceglierò io il candidato di Roma, quindi ci saranno le primarie. Insomma, la politica si interroga su quello che succederà dopo le dimissioni che probabilmente verranno formalizzate oggi dal sindaco di Roma, Ignazio Marino. Parleremo di questo avremo Alessandro Sallusti, direttore del giornale, e Erasmo D'Angelis, che è il direttore dell'Unità. Ovviamente anche col vostro contributo all'800 24 0024, dalle ore 8 i centralini sono aperti. Mi raccomando, chiamate più tardi e andiamo a leggere i giornali intanto. In questo lunedì 12 ottobre i titoli, intanto l'edizione del lunedì del Sole 24 Ore apre sull'effetto crisi sul risparmio, BTP meglio del mattone, questo è il titolo di prima pagina, mentre la Turchia, il terribile attentato che c'è stato in Turchia, è l'apertura per Repubblica, la Turchia contro Erdogan, Ankara, la strage è dell'ISIS, c'è questa doppia versione. Con molti che dicono è una strage di Stato, mentre il governo turco dice è lo Stato islamico che ha colpito. Questa è anche la prima pagina del Corriere della Sera, la Turchia risponde e va in piazza. Per la verità sul Corriere della Sera c'è anche l'apertura sul caso Marino, il Vaticano chiede una scossa per Roma, Renzi siamo pronti, diciamo che sono due le notizie in prima pagina sul Corriere in ampio risalto. Per il giornale, Marino lascia e raddoppia, questo è il titolo di prima pagina, mentre per la Stampa, Renzi primarie per il sindaco a Roma e Milano, Renzi ieri è andato da Fabio Fazio e ha annunciato questo. A proposito di questo, il Fatto Quotidiano da ieri insiste e oggi replica a dire che anche quando Renzi era sindaco, le cene, o anche presidente della provincia di Firenze, le cene le pagava lui? Questa è la domanda che si pone il Fatto Quotidiano. Ieri c'è l'intervista a un ristoratore di Firenze storico dove va Renzi e lui dice tante volte veniva qui con amici o con la moglie e poi mandavo il conto in comune o alla provincia. Cene, quel che Renzi non dice. Il Fatto Quotidiano fa sapere che Renzi ieri ha replicato via sms all'inchiesta del Fatto, dicevo pagavo io, i miei scontrini sono online. Quindi Renzi in primo piano, anche il Messaggero, Renzi Marino ha rotto con Roma, questo è il titolo di prima pagina. Voglio però partire da altre letture oggi, ecco qui, a cominciare dall'Auditel. Sapete cos'è l'Auditel, cari ascoltatori? Beh, l'Auditel è quel sistema che serve a capire quali sono gli ascolti della TV. E soprattutto in base a questo si fanno vari investimenti pubblicitari. Certo che il sistema Auditel è da sempre un po' sotto attenzione a dire ma quali sono le famiglie? Beh, sono segrete le famiglie che tengono quello che viene chiamato il meter, cioè quel sistema, quello strumento attaccato alla TV che rivela in tempo reale che cosa stia guardando una di quelle famiglie. Ora però cosa è successo? È successo un pasticcio a dir poco, e cioè ci sono state delle mail che hanno svelato in pratica quali sono le famiglie che sono in possesso di questo strumento, il che è una violazione della regola basilare, cioè se uno sa qual è la famiglia che ha questo strumento, beh, questa famiglia può essere, come dire, ricattabile, può essere invitata a sintonizzare la TV su un canale piuttosto che un altro. Comunque, noi, famiglia dell'Auditel, il Corriere della Sera con Massimo Sideri va a intervistare, ovviamente preservandone l'anonimato, una delle famiglie che ha l'Auditel. Ecco tutto ciò che avreste voluto sapere sull'Auditel e non avete mai osato chiedere. Millimetrico, con un livello di anonimato da guerra fredda, in grado di rappresentare tutti gli strati sociali, come racconta il mito, non proprio a parlare con una famiglia che fa parte del panel da pochi mesi e che abbiamo contattato in seguito allo scandalo dell'Audigate svelato dal Corriere, e cioè appunto le mail che sono state rese pubbliche di chi ha questo strumento. Primo, esiste il famigerato telecomando con il quale gli appartenenti al panel dovrebbero segnalare di volta in volta quante persone sono sedute davanti alla TV? la nostra famiglia, che chiameremo XY, non lo ha mai visto. Nessuno ne ha fatto cenno quando gli hanno montato il meter, lo strumento di rilevazione collegato sia alla TV che al decoder Sky. Anzi, alle domande poste dal personale sul numero di componenti del nucleo, è facile supporre che il calcolo sia frutto di una media. Secondo, per il disturbo della partecipazione al panel c'è un bonus di 40 euro annui. 40 euro all'anno, cioè uno lo fa per 40 euro all'anno. Vabbè. 40 euro annui, e per permettere al personale di montare i necessari strumenti di rilevazione bisogna dare la disponibilità a far entrare in un tecnico dal lunedì al venerdì in orari d'ufficio. Altro elemento importante, perché l'attendibilità dell'audience richiede che il panel riproduca il più esattamente possibile la stratificazione sociale, culturale ed economica delle persone andate davanti alla TV, e questo le coppie che lavorano potrebbero risultare sottostimate. Terzo, ma i dati su chi fa parte di questo sacro panel, dal quale dipendono 4 miliardi di investimenti pubblicitari sui canali TV, non dovrebbero essere trattati come la lista di chi detiene dei soldi non dichiarati al fisco in Svizzera? Ecco, questi dubbi sono posti dal Corriere della Sera, noi famiglia dell'Auditel, a pagina 25, per sapere un po' di più come funziona questa vicenda dell'Auditel, lo scoprite sul Corriere. Invece voglio dirvi e voglio segnalarvi due articoli riguardanti le adozioni che sono molto interessanti. Il primo è di Maria Novella De Luca e lo trovate su Repubblica, pagina 21. È la rivoluzione delle adozioni. I bimbi in affido restino in famiglia. Domani è una giornata importante. Ecco, questi sono i giorni, vedete, in cui le votazioni di cui si parla zero, nelle quali invece la politica decide. E influisce poi sulla vita dei cittadini. Domani ci dovrebbe essere un voto definitivo su una legge, racconta Repubblica, si chiama diritto alla continuità affettiva dei bambini in affido familiare. È una norma importantissima che domani sarà quasi certamente approvata dal Parlamento italiano. Dice una cosa semplice: i bambini che crescono con genitori affidatari potranno da questi essere anche adottati, se e quando risulti impossibile il loro ritorno nella famiglia d'origine. Dovrebbe essere naturale, scontato, visto che con quelle madri e padri a tempo hanno già trascorso magari un pezzo di infanzia o di adolescenza. Invece in Italia ci sono voluti 15 anni e un lavoro di mediazione certosina perché si arrivasse a una legge che permetterà da domani anche ai genitori dell'affido di concorrere all'adozione del ragazzino e della ragazzina, dei quali di fatto sono già figure fondamentali. Così si evitano traumi e lacerazioni, e tutto ciò con una corsia preferenziale. È una legge saggia, ma che alla fine di un lunghissimo dibattito ha escluso da questa possibilità sia le coppie di fatto che i single, creando, così dicono alcuni, una discriminazione tra quei bimbi che potranno avere una continuità d'affetto con le mamme e i papà dell'affido e i bimbi che dovranno invece abbandonarli. Comunque, fino ad oggi, per i genitori a tempo l'adozione era vietata. Ora invece questa legge che cambia è in nome della continuità affettiva, il diritto alla continuità affettiva dei bambini in affido familiare, darà una corsia preferenziale a chi è in affido i bambini di poterli poi adottare, se non possono ovviamente tornare nella famiglia d'origine. Mi sembra una cosa di assoluto buonsenso. A proposito di adozioni, questo articolo invece, che è in prima pagina del Sole 24 Ore di Antonello Cherchi, racconta una storia ben diversa. Riguarda le adozioni internazionali e in particolare la Commissione per le adozioni internazionali, in sigla CAI. Una commissione fantasma, scrive il Sole, tanto che c'è stata una riunione quando si è insediata la nuova presidente, che è Silvia Della Monica, e poi più nulla. Dal giugno 2014 della Commissione per le adozioni internazionali non ci sono tracce. Prosegue l'attività degli uffici, ma da 16 mesi l'organismo collegiale, che deve tra l'altro ratificare eventuali decisioni d'urgenza prese dalla vicepresidenza, non si è più seduto intorno a un tavolo. E ora non si sa neanche chi siano i componenti, due sono decaduti, un terzo è in forze, e intanto le adozioni di bambini stranieri continuano a calare. È una storia davvero incredibile. Adozioni, una commissione fantasma, raccontata dal Sole 24 Ore a pagina 15. il racconto di come in 2 anni questa CAI si sia riunita solo 2 volte, l'ultima a giugno 2014, 1 anno e mezzo fa, con i componenti che dicono: ma io mi sono dimesso, ma secondo il sito della CAI sarei ancora in carica. E, non so, una storia, non so se dire di burocrazia, non la conosco bene, leggerò poi con attenzione l'articolo di Antonello Cherchi, se di burocrazia o di incredibile menefreghismo riguardo a questa commissione adozioni internazionali. Vi segnalo, ed è l'ennesimo caso in pochi giorni, in un caso di stalking, questa volta finito bene, oddio, bene non si può dire in questi casi, perché purtroppo ci sono stati anche 2 omicidi di donne uccise da persecutori, uomini, ex fidanzati o ex compagni nel giro di pochi giorni. Questa volta si può dire finita bene, nel senso che la persona che minacciava questa ragazza è stata arrestata, ma pensate un po', come racconta Alessandra Ziniti a pagina 19 di Repubblica, via da casa per fuggire allo stalker. È la storia di questa ragazza, si chiama intanto Sant'Agata di Militello, in provincia di Messina. Si chiama Lucia, almeno nome di fantasia, come si fa in questi casi, viene definita Lucia, chiamata Lucia da Repubblica. Ha dovuto stare 20 giorni fuori da casa, nascosta, perché continuava a dire agli inquirenti: guardate che il mio ex fidanzato continua a dire vi uccido tutti, vi taglio la testa, vi ammazzo. Era stato denunciato 5 volte in 2 mesi, ma rimaneva sempre libero, in una villetta a 2 passi da casa sua. E quindi questa ragazza che ha fatto? Ha dovuto lasciare casa, è stata costretta a fuggire per il terrore, vivendo così per mesi, visto che lui mi diceva sempre: anche se ci lasciamo, se ti vedo in compagnia di un altro ti ammazzo, tu sei solo mia. Alla fine c'è stato l'arresto, tra l'altro è avvenuto l'arresto lo stesso giorno dei funerali della mamma uccisa a Nicolosi. Forse questa vicenda, e cioè il timore che potesse esserci un altro assassino, ha convinto chi di dovere ad arrestare questa persona. Via da casa per fuggire dallo stalker, Messina, l'inferno di una studentessa perseguitata dall'ex. 5 mesi con 2 mesi con 5 denunce, ma lo hanno fermato solo all'ultimo. Meno male, verrebbe da dire. Certo che dicono poi in questa legge: denunciate, denunciate che vi proteggiamo. Oh, sarà così. La cronaca purtroppo a volte racconta altro, eh? Ma eccoci qui. Questo è l'articolo che mi fa più incazzare di questa giornata. È un trafiletto, per la verità. È un piccolo articolo che troviamo a pagina 10 del giornale. È una notizia che viene dall'Iran, da Teheran. Stringe la mano a un uomo costretta al test di verginità. Succede peraltro nei confronti di un'attivista iraniana, Atena Farghadani, 29 anni, costretta già, secondo Amnesty International, a subire questo test dopo che è già in carcere. Dopo aver stretto la mano all'avvocato in carcere, è stata accusata di condotta indecente, relazione sessuale inappropriata, e dunque, denuncia Amnesty International, è stata costretta a subire un test di verginità e gravidanza nel carcere in cui è rinchiusa. Succede in Iran. Agghiacciante quello che dicono, è una vergogna. State ascoltando un programma offerto da ADP, leader mondiale nella gestione del personale. Alessandro Mila, il gattino attaccato ai maroni dell'informazione. Il gattino attaccato ai maroni non è male, eh? Citazione di Alberto Forchielli, che definì così la Grecia. Allora, qui a questi microfoni. Allora, cari ascoltatori, ieri Matteo Renzi è andato da Fabio Fazio a farsi intervistare. È stata una giornata in cui si è parlato molto di Roma, tutti appesi alle decisioni del sindaco Marino. Ebbene sì, ancora sindaco Ignazio Marino oggi dovrebbe formalizzare le dimissioni. Da quel momento scattano 20 giorni entro i quali potrebbe ripensarci, ma non succederà, almeno così dice lo stesso Ignazio Marino. Marino lascia, non ci ripenso, pagina 3 del Messaggero, ma già lavora alla lista elettorale. Dunque non ci ripenso, ma secondo un retroscena che ci sono sui giornali, Marino, dopo aver ieri visto il bagno di folla di persone che lo hanno sostenuto, dopo aver visto che c'è una petizione di già 40.000 persone che hanno firmato una petizione su change.org chiedendogli di non dimettersi, insomma Marino starebbe pensando, gli starebbe frullando l'idea nella testa comunque di ricandidarsi quando si andrà a votare dopo la gestione del commissario. Secondo la stampa addirittura Marino potrebbe valere un 8% come peso elettorale, beh, che non è poco, certo non potrebbe mai ritornare a fare il sindaco di Roma, ma non è poco negli equilibri se questo 8% viene sottratto a chi. Comunque Marino lascia, non ci ripenso, ma già lavora alla lista elettorale. Anche su Repubblica: lascio, non cambio idea, al sindaco in lacrime conferma l'addio ma non esclude l'idea di ricandidarsi. Ci sarebbe ancora dietro tutto ciò la sua ex portavoce, poi attualmente assessore a Roma, Alessandra Cattoi, racconta il Messaggero. A coordinare la nuova avventura potrebbe essere ancora lei, fedelissima del sindaco chirurgo, ma anche qualche altro pezzo dell'attuale giunta potrebbe a sorpresa decidere di puntare tutto sulla ruota di Marino. Intanto Renzi ha detto: Roma funzionerà, siamo pronti. Ha confermato ieri da Fabio Fazio che il nome non lo sceglierò io, ha detto, e dunque ci saranno le primarie. Ha detto però: cari romani, scegliete bene, state attenti. Come dire, attenzione a chi scegliete. Ha parlato anche di Berlusconi, l'avete sentito, non ci parliamo più e per questo non ci dormo la notte, ha detto con ironia Matteo Renzi. E poi su Roma ha parlato del commissario, tutti a dire che succederà oggi. Il retroscena più interessante su questo è di Fiorenza Sarzanini a pagina 11 del Corriere della Sera. Un commissario e 8 vice, ecco come sarà gestita la città. Cioè l'idea è questa, quella di non avere solo un commissario i cui nomi circolano, sarà un prefetto, I nomi sono persone a voi sconosciuti: Paola Basilone, Riccardo Carpino, Angelo Tranfaglia, Luigi Varratta, Leonardo Gallitelli. Questi sono i nomi che il Corriere dà in pole position. C'è anche Alfonso Sabella, che era i nostri microfoni la scorso venerdì, e che è stato l'assessore alla legalità. Forse questo è il nome più noto, perché se non altro perché è stato assessore proprio con Marino. Però l'idea è proprio di avere anche 8 vicecommissari, cioè fare un qualcosa come una sorta di governo commissariale, in modo da occuparsi di tutte le faccende, anche perché c'è il giubileo alle porte. Ah, tra l'altro tutti sono molto attenti a vedere che cosa ha fatto il Vaticano. Oggi troverete su tutti i giornali questa notizia: il Vaticano avverte. Certo, siamo uno Stato laico, siamo un governo dove non ci sono ingerenze, per carità, non sarà un'ingerenza, sarà un intervento, quella della lettera alla città resa nota ieri dal fiduciario del Papa per la capitale, cioè il cardinale Agostino Vallini. Una lettera che verrà pubblicata a novembre, è stata però anticipata ieri, da una lettera impietosa nei confronti della classe dirigente politica romana. Tanto che ci sono i vaticanisti, come Paolo Rodari su Repubblica, pagina 10 e 11, che racconta: il Vaticano avverte, via Ignazio e poi cominciamo a tornare a parlare. Cioè ormai la vicenda è questa, sapete che c'è stata questa escalation, anche i rapporti tesi col Vaticano, che sono culminati con la famosa scomunica, tra virgolette, politica del Papa, quando disse al ritorno dall'America: Marino non l'ho invitato io. Ebbene, ma c'è l'enfasi e il clamore dato dal Campidoglio ai matrimoni gay e al riconoscimento, c'è poi questa vicenda del viaggio in America. Insomma, tutta una serie di cose che hanno intesito i rapporti, per cui il Vaticano ora racconta Paolo Rodari, è interessante questo retroscena su Repubblica, proprio vuol dire: vada via Marino. E poi torniamo con le autorità italiane, torniamo a parlare. Invece però su questa vicenda, attenzione a quello che il Fatto Quotidiano da un paio di giorni racconta su Renzi, perché sapete che Marino è caduto per le famose ricevute del ristorante, gli scontrini. Ebbene, ieri il Fatto Quotidiano è andato a intervistare Lino Amantini, che è uno dei ristoratori fiorentini preferiti da Renzi, e ha raccontato in questa intervista a Lino Amantini di pranzi e cene a spese della provincia del comune di Firenze quando c'era Renzi. E lui dice: io mandavo il conto o in comune o alla provincia. Ecco che allora l'accusa del Fatto è: Renzi, tu pagavi i tuoi scontrini? Via SMS, racconta il Fatto Quotidiano, ieri ci arriva da Matteo Renzi questa precisazione: io ho messo online tutte le spese, primo in Italia, e tutte le volte che ho mangiato con mia moglie e la mia famiglia ho pagato di mio, sia da Lino che da altri. Peraltro tutte le spese dal 2004 al 2013 sono state al vaglio, nome per nome, pranzo per pranzo, di PM e Corte dei Conti. Non è possibile che Lino dica che il comune pagava le cene con mia moglie, perché lui voleva offrirmeli e io proprio per questo insistevo per pagarli. Certe cose io non le faccio. E comunque ci sono le ricevute del comune, le mie personali, mai fatto tavolate con moglie e amici. Questa è la precisazione del Fatto di Renzi al Fatto Quotidiano. Ma il Fatto Quotidiano insiste, dice: c'è un pranzo del 5 giugno 2007, un conto da 1.050 euro, come risulta dalla Corte dei Conti, che è ancora per i soli pasti in 5 anni l'attuale Premier fece spendere alla provincia 600.000 euro. Può mostrare tutti gli scontrini Matteo Renzi? È vero ancora che quando era a Boston nel 2008 gli bloccarono la carta di credito della provincia per raggiunto limite di spesa? E chi era a Boston con lui? Chi andò con lui a Washington nel 2008 nel viaggio? Insomma, il Fatto Quotidiano ora prende di mira Renzi e dice: vogliamo vederci chiaro con tutti questi scontrini. Chi di scontrino ferisce, di scontrino perisce. Quindi ora il Fatto insiste. Insiste. Staremo a vedere chi ha ragione. Intanto Renzi ha annunciato anche una cosa importante che riguarda la legge di stabilità, e cioè ieri da Fazio ha detto che la flessibilità sulla uscita dell'età pensionabile è rinviata da questa legge di stabilità. Questo dovrebbe porre un punto finale. Sapete che costava, insomma, si discuteva molto sulla flessibilità, sull'anticipo di uscita, la possibilità di uscire, andare in pensione prima. Questo costava dei soldi. Si potrebbe tradurre così, ma lo chieda Mauro Meazza: Padoan 1 Renzi 0, cioè si è dovuto arrendere all'evidenza il fatto che non ci sono i soldi per fare questa cosa? Mauro, pronto? No, non c'è la capolista. Non c'è Mauro Meazza, ma non c'è la capolista. Tra l'altro la capolista non è l'Inter, la capolista non è neppure la Prosesto, che come la tradizione ha perso a Lecco, e la mia voce stentorea vi fa capire, insomma, che è lunedì dopo una sconfitta della Prosesto. Ma Mauro Meazza l'abbiamo recuperato oppure no? No, Mauro Meazza non c'è. E allora andiamo avanti a leggere dopo il rinvio delle pensioni. Che cosa? Anche altri articoli. Vi voglio leggere l'articolo, o meglio l'editoriale di Michele Ainis in prima pagina del Corriere della Sera, perché è un articolo molto molto interessante. No, non vi voglio leggere l'articolo di Michele Ainis, perché c'è Mauro Meazza. Buongiorno Mauro! Buongiorno! Eccoci. Un po' complicata questa... Sì, la domanda era difficile, quindi ho preso tempo per rispondere. Ecco, infatti, ti sei ritirato. No, lo scopriremo solo aspettando questa settimana, dai, la settimana decisiva, non per l'abolizione delle province, o almeno è la 128esima, conto giusto? 128esima settimana decisiva per le province, invece è quella decisiva per sapere cosa ci mettiamo dentro la legge di stabilità, o vorrei precisare che comunque è un disegno di legge di stabilità, poi vedremo come arriva in fondo. Noi nel frattempo abbiamo visto come sono arrivati i nostri risparmi post-crisi. Volevamo, a dirti la verità, fare il conto con i due urini nel 2007, cosa sono diventati, se tu hai comprato casa, se hai comprato azioni e così via. Sei affezionato ai miei due urini, sono miei. Per semplicità, devo dirti, per semplicità abbiamo fatto un conto su 100 urini, perché con due urini ci sembrava un pochino una citazione eccessiva del tuo programma. Comunque trovi tutto sul Sole 24 Ore di oggi, così come ti ricordo sempre in materia di due urini, oggi cominciano le domande per prenotarsi sulla quotazione delle Poste. Stavo dicendo IPO, ma poi sempre il verdetto di Angelino. Quindi, diciamo, quotazione, comincia il collocamento, oggi ne parliamo sul Sole 24 Ore. Ti volevo dire invece, ringraziandoti a nome del collega Antonello Cherchi per la citazione della Commissione Adozioni, pure sul Sole 24 Ore di oggi, la Commissione per le Adozioni Internazionali, che non si sa bene se si riunisca più o no, ti volevo dire che c'è un po' di problemi sul contratto degli statali, perché esisteva una riforma del 2008-2009, la riforma Brunetta, e bisognerebbe fare tutta una serie di passaggi prima di rinnovare il contratto. Insomma, non sembra che la cosa possa avvenire in tempi rapidi, ma ti spiega tutto Gianni Trovati, naturalmente. Poi c'è sempre la guida alla voluntary disclosure, oggi parliamo dell'ombrello dal penale, cioè della copertura che si può ottenere, pensaci Alessandrino, non Giacomino ma Alessandrino. E infine ti voglio dire, molte cose stanno cambiando sull'automobile, anche sulla tua, in materia di dematerializzazione del certificato di proprietà. Da domenica prossima scompare l'obbligo di esporre il tagliando e molto altro ancora, ma ti racconto tutto quanto, chi se no, Maurizio Caprino. Maurizio Caprino oggi sul Sole 24 Ore. E a questo punto, caro Alessandro, traffico! Autostrada Pedemontana, la prima e unica senza caselli. Scoprila su pedemontana.com. Vi presenta... Per me, la rassegna stampa di Alessandro Milan... Ebbene sì, cari ascoltatori, allora, l'articolo editoriale di prima pagina di Michele Ainis sul Corriere della Sera, a mio modo di vedere, è una fotografia illuminante, precisa, perfetta di che razza di paese siamo in alcuni casi. Sentite qui, la nazione sul piano inclinato. Guerra o pace? Né l'una né l'altra. Noi siamo per la guerra pacifica. Due camere o una sola? Lasciamole agli altri queste soluzioni rozze. In Italia avremo una camera e mezza. E da chi verrà eletto il nostro mezzo senato? Dal popolo o dai consiglieri regionali? Lo eleggeranno i cittadini attraverso il consiglio regionale. E il matrimonio gay? Niente da fare. Però il Parlamento sta approvando le unioni matrimoniali. Meglio il parlamentarismo o il presidenzialismo? Meglio il presidenzialismo mascherato da parlamentarismo taroccato. Eccola la nostra inclinazione nazionale. Ogni decisione corre sempre su un piano inclinato. Anche quando si tratta di decidere tra attacco e difesa, tra resistenza e indifferenza, anche se di mezzo c'è una guerra, ovviamente senza dichiararla. Useremo, pare, 4 bombardieri contro l'ISIS, ma c'è voluta un'anticipazione del Corriere per scoprirlo. E come potrà scoprirlo il Parlamento? Forse con un'informativa di governo, forse con un voto in commissione. Tuttavia non è questa la regola, perché la Costituzione ammette la sola guerra difensiva e a condizione che venga deliberata dalle Camere. Magari sarà una regola sbagliata, ma allora cambiamola invece di aggirarla. Nel frattempo la Costituzione sta cambiando, o forse no, perché la novità più innovativa non è scritta nero su bianco nel testo di riforma, bensì sulla legge elettorale. E ancora sui matrimoni gay, mezzo secolo dopo il divorzio, stiamo per fare il bis col matrimonio omosessuale. Nel disegno di legge Cirinna non figura nemmeno una volta l'aggettivo, mentre il sostantivo si traduce in unione civile. C'è una vittima, c'è un agnello sacrificale nei nostri costumi politici e giuridici, ne fa le spese la legalità. Perché in Italia la legge è opaca, ingannevole, insincera, in ultimo nessuno mai risponde alle proprie azioni. Per rispondere, d'altronde, servirebbe una domanda chiara, come quella di un bambino. Invece la Repubblica italiana è diventata adulta, ma non è né vergine né madre, è sempre leggermente incinta. Ecco questo Michele Ainis, che è un costituzionalista e scrive in prima pagina del Corriere della Sera. Se vogliamo guardare all'estero, invece, ovviamente c'è ancora moltissime pagine dedicate alla Turchia. C'è stato questo terribile attentato, sono 120 i morti di una marcia pacifista a sostegno dei curdi. Il dibattito è è stato lo Stato Islamico, sono stati i terroristi, come dice il governo turco di Ankara, oppure il sospetto per molti, per gli stessi pacifisti, a dire è una strage di Stato. Vi segnalo tra i tanti articoli un'intervista all'intellettuale Orhan Pamuk, insignito del premio Nobel per la letteratura nel 2006, dice a Repubblica: noi ostaggi della paura, ora temo una nuova guerra civile in Turchia. Meditiamo anche su questo, nella vicina Turchia, nella Turchia che potrebbe entrare nell'Unione Europea. C'è invece un mistero in Iraq su un convoglio che è stato bombardato e una foto che è stata diffusa in rete attribuita la faccia al cadavere di Abu Bakr al-Baghdadi, sarebbe il leader dello Stato Islamico. È davvero lui? È morto? È vivo? Qui, come al solito, c'è il mistero. La foto è pubblicata anche dal Corriere della Sera, pagina 6. Un convoglio è stato bombardato, ci sono molte vittime dello Stato Islamico. Che ci sia tra le vittime anche il leader dell'ISIS al-Baghdadi, beh, questo è un giallo. Come al solito questi gialli non sono facili di facile soluzione. Mentre vi segnalo l'ennesimo episodio di cronaca che riguarda i vaccini. Una bambina di 28 giorni a Bologna è morta per la pertosse, una malattia di quelle di ritorno, denunciano i medici, di ritorno, perché molte persone non decidono di non fare vaccinare i loro figli. La notizia di cronaca è scritta sul Giorno, lo faccio vedere anche in diretta su Periscope, mentre il Messaggero torna su questa vicenda: vaccini, il piano per fermare la fuga. Oggi un incontro delle regioni per un programma fino al 2018, far capire ai genitori l'importanza dei vaccini. Ci sono movimenti come anti-vax, cioè i no vaccini, che negli ultimi anni hanno fatto proseliti tra i genitori, tanto che oltre il 33% dei genitori ritiene che la protezione del vaccino sia più pericolosa delle infezioni da cui dovrebbe proteggere. Questo sul Messaggero è l'inchiesta, l'articolo che riguarda insomma la fuga dai vaccini, e purtroppo ci sono dei casi di morti. Ma va bene, andiamo alla carta costa perché siamo in chiusura. L'articolo più inutile scovato sui giornali. No, me lo sono perso. Dov'è? Non posso farlo vedere. Comunque, eccolo qui. A Eton tolgono le divise. A Eton, il college inglese. Una pagina sulla stampa. Una pagina. Chi se ne frega? Il segnale orario vi è offerto da logisticamente Modul Block, dal più piccolo magazzino semplice o automatico al più complesso centro logistico. Smau ti aspetta a Milano 21-23 ottobre, Fiera Milano City, smau.it. Vi presenta Ladies and Gentlemen, and now Alessandro Milan and Oscar Giannino. Voi due siete superficiali, sciocchi, il simbolo di una vita sprecata. Basta! Basta! Basta! Prendi due elementi innocui se separati come nitrato e glicerina. Combinali insieme e avrai un esplosivo potentissimo. 24 mattino. Attenti a noi due. Eccoci qui, caro Oscar Giannino. Buon 12 ottobre, che insomma quando si andava a scuola era la scoperta dell'America. Ah, è così. Io iniziamo sempre così. 12 ottobre ricordo la maestra, il maestro Cristoforo Colombo, eccetera. 1492, almeno questo l'ho azzeccato. Porca miseria, almeno l'anno l'ho azzeccato. Caro Oscar, più umilmente è il giorno in cui Ignazio Marino si dimetterà. Però con l'America c'entra. Coincidenza. Ah, eccolo lì. Coincidenza. Con l'America c'entra anche Ignazio Marino. Ma allora, cari italiani, se volete parliamo di questo, ovviamente parliamo di tante cose, le notizie che ci sono sui giornali. Certamente Ignazio Marino si dimette oggi e formalizza. Tra l'altro, Oscar, prima ragionavamo, prima di entrare in onda, ma il Vaticano non sta un po' esagerando? Ah, anch'io ho questa impressione. Cioè, con rispetto. È molto attivo, con rispetto assoluto, le due sponde del Tevere, ma insomma da quella sponda là, Osservatore Romano, e il Cardinal Vallini, e Rino Fisichella, e insomma, diciamo c'è un certo concerto. E prima il Papa. Prima il Papa insomma, un certo concerto di pressioni. Ma perché c'è il Giubileo, e questo è importante, certamente. No, parlano oramai di classe dirigente, cioè, si stanno allargando a disegnare le caratteristiche dell'offerta politica alle elezioni comunali, non parlano del Giubileo, questa è la caratteristica, cioè i vertici della Chiesa che parlano, a differenza del Papa, che non vedo, giustamente spero che non lo faccia, entrare nei dettagli del governo nazionale e locale, e loro ci entrano a piedi uniti, per così dire. Tra un po' diranno come bisogna fare le liste, i simboli. Se vogliono il proporzionale. Per esempio al Vaticano vorranno le primarie per il Comune di Roma oppure no? Insomma, no, ovviamente si fanno battute, però certamente è uno dei temi, cioè che ne pensate di questi interventi, ecco, mettiamola così, del Vaticano? Nel rispetto, diciamo, ripetuto, che un problema di ingerenza c'è ancora in Italia, ecco, questo mi sembra si possa dire, no? Questa volta proprio in maniera esplicita sul sindaco della capitale, sindaco Marino, che peraltro ieri ha visto, ha avuto dei supporter, ha avuto gente che lo sosteneva. Ma tu che impressione hai? Ecco, questi sono. Ma che impressione ho? Intanto, secondo i giornali, potrebbe ricandidarsi. La Stampa dice anche che vale Ignazio Marino un 8%. Perché io ho come l'impressione che abbia passato, diciamo, il primo giorno e mezzo a pensarci seriamente, a dire: caro PD e caro Renzi, adesso vi do una brutta sorpresa. Poi, tra ammorbidimenti e messaggi indiretti e impliciti, dica. Insomma, forse rischio troppo, ecco, per così dire. Sì, certo, l'idea di essere una mosca in queste 48 ore e sentire e capire che tipo di che telefonate, che interlocutori avrà avuto Ignazio Marino, in questo sarebbe stato interessante capire con chi avrà parlato in questi giorni. Lui dice che con Renzi non ha parlato, con Tizio non ha parlato, con Orfini non ha parlato per telefono, poi c'è ovviamente abbiamo degli incontri con Orfini. Ha parlato, e lo sappiamo, con i capi dei municipi, con quelli della propria lista, liste. Però detto questo, il problema sollevato dal Fatto, Alessandro, dal Fatto Quotidiano, in questi due giorni, che prima è andato a vedere, ma come fanno i sindaci nelle altre città? Rendicontano gli scontrini? Ci sono le fatture? C'è la indicazione per ognuno delle cene che pagano con il bilancio, dal bilancio del comune, con chi erano, eccetera, eccetera. E abbiamo scoperto quello che sapevamo, per chi è del mestiere, però chi legge il Fatto ha scoperto che nessun sindaco di grande città italiana fa così, tranne rarissime eccezioni. No, non solo, il Fatto Quotidiano dice che un ex presidente della provincia, cioè Renzi, avrebbe speso 600.000 euro alla provincia di Firenze. Sono andati anche a intervistare il ristoratore, ormai è la nuova categoria, i ristoratori che parlano, no? Un ristoratore di Firenze che dice, il famoso Lino, sei mai stato tu a cena? No. Da Lino da Firenze, che dice: veniva qua Renzi con amici, anche la moglie, eccetera, io mandavo tutto al comune o alla provincia che saldavano. Renzi si è un po' arrabbiato. Si è un po' arrabbiato. Però Renzi dice: andate a vedere tutto online. E il Fatto continua dicendo: no, veramente, per le tue spese è stato chiesto l'accesso pubblico ai documenti che Marino non ha negato a Roma, infatti di lì nasce poi tutto. E in realtà è negato, e il Fatto indica le date ed è negato. Il Fatto Quotidiano insiste a dire: guardi che Renzi qua non sappiamo come lei ha speso questi 600.000 euro quando era capo della provincia. Addirittura racconta che una volta in America gli hanno bloccato la carta di credito perché come presidente troppo della provincia, perché ha raggiunto troppo il limite. Allora, io non voglio dire viva il fatto, però da giornalista e parlando con i nostri ascoltatori dobbiamo dirlo: c'è chi non si ferma di fronte a certi nomi. Il Fatto, uno può essere favorevole o meno a come sono improntate su alcuni temi, però diamogli atto, non si ferma, si pone la domanda e la pone a Renzi. E gli altri, non c'è traccia sugli altri di tutto questo. Su questo è vero. Tra l'altro, 800 24 00 24, se volete intervenire in diretta. Caro Oscar Giannino, ieri il buon Renzi è andato da Fabio Fazio. Vuole sentire cosa ha detto su Marino? Certo, un intervistatore di quelli proprio. Eccola lì, ecco l'inzigata. Parlavamo del Fatto che pone le domande. Dal Fatto a Fazio. È lo stesso fa. Renzi. Da segretario del PD. Non lo so se si è rotto qualcosa tra il PD e Marino. Forse quello che si è rotto è tra l'amministrazione e la città, più che con il PD. Vabbè, se non so se si è rotto qualcosa. Poi Renzi adesso non va mai al punto quando deve rispondere alle domande. Ma su Roma c'è un evidente imbarazzo, perché tutta la nascita della candidatura a Marino inventata da Bettini, poi il fatto che lo volevano far fuori, poi che torna intoccabile perché esplode il dossier di Roma Capitale, è tutto un problema, il rapporto tra i guai del PD a Roma è come metterci una pensa sopra. Quindi io capisco anche l'imbarazzo di Renzi, perché il PD di Roma poi è un PD che per lui era una cosa aliena, sì, non era roba sua, per così dire. Sicuramente. Tra l'altro, vedi, Oscar, ci dicono ma Marino era a favore delle coppie di fatto, questo a dire perché il Vaticano è contro. Certo. Mettiamo un cardinale sindaco e la chiudiamo così. Vabbè, questo è un ascoltatore, Marco da Torino, che fa un paradosso, però chiaramente è il rapporto col Vaticano. Il buon Renzi ha parlato anche di tasse, perché se volete parleremo anche di questo. Oggi l'Unità, e avremo tra poco il direttore dell'Unità, dice che Renzi, insomma, sta conquistando gli imprenditori soprattutto nel mitico nord-est. Vabbè, venerdì pomeriggio, in questa uscita che ha fatto di fronte a migliaia a Treviso, è andato molto bene. L'hanno coperto di applausi. E quindi l'Unità punta su questo. Ma Renzi ha parlato appunto di tasse. E allora sentiamo cosa ha detto sulle tasse. Da quando ci siamo noi, con tutti i nostri limiti, che sono tanti, i nostri difetti, la discussione è quali tasse abbassano quest'anno. Primo anno 80 euro, l'anno scorso IRAP e costo del lavoro, cioè abbassare le tasse, quest'anno IMU e TASI prima casa, poi IRES e superammortamenti, cioè l'Italia è nella più, io se non fossi esagerato direi, lo sono, quindi non dirò che è una storica riduzione delle tasse. Non dirò che è una storia che, cioè, però più o meno non può dirlo perché il dato ufficiale che abbiamo annunciato, tutte le trasmissioni in cui vado lo ripeto, dato ufficiale assestato alla pressione fiscale 2014 sul 2013 ha registrato un aumento, dato Istat, quindi questo fa parte della propaganda, non so cosa dire, propaganda. Perché gli 80 euro nessuno li può negare, come nessuno può negare però che ha fatto l'aumento della tassazione retroattiva sui fondi previdenziali privati, sulle e così via. Quindi il nostro mestiere è ricordare i numeri, andate a vedere l'Istat, vedete l'assestamento corretto delle pressioni fiscali 2014-2013, vorrei dare ragione a Renzi, però c'è un aumento. Questo fino al 12 ottobre, poi se taglierà lì la TASI, se taglierà l'IMU, se taglierà l'IRES, se taglierà questo... Però intanto registriamo che in questi ultimi 4 giorni, la finanziaria arriva giovedì, la legge di stabilità, la promessa di abbattere il 2,5% l'aliquota IRES è sparita perché hanno capito che non c'hanno i conti, e adesso abbiamo preso sui giornali anche la promessa di prepensionare. Sì, questo l'ha detto anche questo da Fazio, io l'ho tradotta così, non dimmi se sbaglio, Padoan 1 Renzi 0, perché Padoan era quello che diceva, Padoan 2 Renzi 0, perché Padoan era quello che diceva i conti sono quelli che se tu vuoi mandare in pensione le persone prima devi trovarmi dei miliardini, copertura, non si può fare tutto in deficit, e quindi Renzi ha detto effettivamente ci abbiamo provato e si farà nel 2016, va bene. Come del resto l'IRES, l'IRPEF nel 2017, quindi insomma non mettiamo tutto in una frase, però lui è bravo, è abile, cioè è chiaro che insomma gli imprenditori non si aspettavano un Presidente del Consiglio che gli dava una decontribuzione di 8.000 euro l'anno per ogni contratto, neanche aggiuntivo, quindi per gli imprenditori lui resterà insomma una specie di Madonna di Lourdes. Sì. Allora qui caro Oscar avremo due direttori dopo la pubblicità, abbiamo già tanti ascoltatori che ci chiamano all'800 24, qualche cardinale anche no, non so, volevo sentire cardinali, ma che si candidano? Non si sa mai, non so. Io non mi meraviglierei. 5 Stelle fa il curriculum in rete, se volete candidarvi, non so, sindaco di Roma, potete fare. No, però c'è la lista, la colomba dello Spirito Santo. Federico da Pordenone, che magari su questo tema mi dicono, sulle presunte ingerenze della Chiesa, vuol dire qualcosa. Federico, buongiorno. Sì, buongiorno. Sì, io mi sono costruito un'opinione. Sì. Relativamente ai fatti anche successi di Marino, ma anche ad altri fatti che stanno, altre piccole affermazioni che stanno venendo fuori relativamente alla Chiesa. Allora, la Chiesa ha sempre, diciamo così, indirizzato i voti verso certi candidati che secondo loro erano più vicini alle loro idee. Su questo penso che nessuno abbia niente da ridire. Secondo me ultimamente il PD e Marino stesso, però nella sua, il PD in generale, ma Marino in particolare nella sua persona e per sue peculiarità particolari, ci è spinto un po' oltre, tanto da mettere in imbarazzo la Chiesa. E quindi a questo punto la Chiesa ovviamente si sta un attimino reagito, difendendo. Ha reagito. Cioè, Ma fa bene? Cioè, fa bene? Fa male? No, io non ho capito personalmente lei come la pensa. Cioè, si sta difendendo, ma la Chiesa... No, io non sto difendendo. Cioè, secondo me la Chiesa sta semplicemente facendo notare che il mandato dato a sindaci, consiglieri regionali, deputati e tutto quanto non è conforme a quello che si era pattuito, siamo in uno stato laico. L'aspettavo al verbo pattuito. Federico, ma non so, Oscar, bisogna pattuire qualcosa con uno stato io estero. Delle pattuizioni, diciamo, dei tempi di Sbardella e degli Andreottiani, non ne farei volentieri a meno. Se alla Chiesa non piacciono i sindaci, che ritengono sia proprio dovere procedere al registro delle unioni civili e così via, posso capirlo, ma non posso capire che poi si mettono a fare politica con gli sgambetti. Con questo sono due dopodiché cose. Dopodiché, però, caro Oscar, non bisogna neanche ferire, perché già risento il fatto che siamo una popolazione di animo cattolico che segue la Chiesa, quindi però liberi di esprimere le loro opinioni. Diciamo, gli interventi non sono mancati in momenti decisivi, però le parole del Papa da una parte, oppure macerie dell'Osservatore Romano, sono arrivati in due momenti decisivi. Diciamo che se l'uomo era sull'orlo di un precipizio, c'è stato un cardinale che misericordiosamente ce l'ha spinto, gli ha dato una gomitata passando di lì, piccola, lieve. Sì, insomma. Allora, caro Oscar, prima di andare in pubblicità vogliamo dare i nostri Oscar? Esatto. Perché io oggi, guarda, ho trovato l'articolo di Michele Ainis, costituzionalista che ho letto, editoriale di prima pagina, straordinario. Cioè, noi siamo il paese, quello che dicevamo nei giorni scorsi, il paese del piano inclinato, dove si fa la guerra ma con la pace, dove si fanno le unioni civili ma non le si possono chiamare così. Dove nei due commi per la nuova elezione del Senato, in uno se ne consiglia già, nell'altro gli elettori. Esatto, il Senato viene dove abbiamo due camere, una e mezza, esatto. Però siamo un paese un po' di peracottari. Ecco, Ainis questo non lo scrive, ma Ainis dice: se si scrivono le leggi in maniera così incerta e ambigua, vuol dire che si vuole ottenere un effetto incerto e ambiguo. E ha ragione. Ha ragione. Il mio Oscar va a Michele Ainis. Il tuo? Devo dire che lo condivido. Il mio, per tenermi su un altro tema, visto che i giornali sono invasi dalla pubblicità di Poste Italiane che si quota in borsa e non trovate un solo giornale, naturalmente, che ne parla, ma che fa notare che è un grande pasticcio questa quotazione, premio almeno lo sforzo sulla stampa di Francesco Manacorda, che sia pur non potendo dire fino in fondo come la pensa, tenta di fare riflettere il lettore. E allora, caro Oscar, devi darlo anche a Francesco da Padova, perché ci ha chiamato una domanda sulle poste per vedi, te. Francesco, buongiorno. Francesco, buongiorno. È vero che ha una domanda sulla privatizzazione per Oscar Giannini? Sì. A proposito dell'articolo di Michele Ainis, sì, che dice che si fanno sempre le cose a metà. A metà? Si privatizza il 40% delle poste. Di questo 40%, il 70% deve andare agli enti, diciamo, pubblici. Allora, è una privatizzazione o è ancora peggio di quello che scrive Ainis? No, guardi, in termini tecnico, Francesco, non è una privatizzazione, perché il controllo resterà allo Stato, come avrà capito. Quindi si chiede risparmio privato, e il grande errore è, per l'ennesima volta, non aver capito gli errori delle privatizzazioni precedenti, perché non si liberalizza, quindi le attività finanziarie e assicurative da cui Poste fa il 99% del suo risultato andavano separate dalla vecchia consegna di servizio universale, che noi come contribuenti sussidiamo ancora per miliardi. E invece con questo meccanismo ai privati si dice: voi non gestirete mai né controllerete Poste, ma vi regaliamo una bella rendita, quella dei sussidi pubblici ad attività che non ne avrebbero bisogno, e in cambio vi diamo un grande rendimento, perché è stato fissato un dividendo che andrà allo Stato e che sottoscrive i titoli molto alto, 70-80%, in cambio del fatto che resterà dello Stato. Però in questo l'Italia è maestra, poi tra un po' chi la oggi la fa ci insegnerà che è stata una cattiva privatizzazione, e funziona così in Italia, Francesco. L'essenziale è che qualcuno spieghi che non è una privatizzazione, perché non lo è. E allora, buon Oscar, andiamo in pubblicità. Dopo avremo Erasmo D'Angelis, direttore dell'Unità, e Alessandro Sallusti. Ah, c'è anche il direttore. Com'è? Del giornale. Alessandro Sallusti, perché? No, chiedevo, perché da solo, no? Quindi volevo sapere se c'era. C'è lui anche, Alessandro Sallusti, direttore del giornale. Tra poco! State ascoltando un programma offerto da ADP, leader mondiale nella gestione del personale. Allora, Alessandro Milan e Oscar Giannino, siamo qui. Eccoci, 8 e 37 minuti. Noi abbiamo degli ospiti da presentare, Oscar Giannino. Però è successo una cosa. Beh, ci rende molto orgoglioso, molto bello. Ci ha chiamato, e come ascoltatore, e noi allora l'abbiamo subito richiamato, il maestro Andrea Bocelli. Buongiorno, maestro. Buongiorno a voi, buongiorno Oscar, che conosco di persona. Grazie. Buongiorno Alessandro, che conosco invece così per la prima volta via radio. Che bello. Ma che ascolto tutte le mattine. E vabbè, e questo è un onore. Anche stamattina vi ascoltavo, ho deciso di così di farvi un saluto, un ringraziamento per quello che fate. No, per vabbè, grazie, che ci date. No, no, e anche per, vuol dire, per dare un piccolo contributo positivo alla discussione che ascoltavo all'inizio, no? Quando parlavate del, naturalmente delle dimissioni del sindaco Marino, delle miserie che riguardano i vari sindaci di grandi città italiane, no? Sì. Beh, io, voi sapete che io sono abituato, per deformazione professionale canto fuori dal coro, no? Sì, sì. E allora che posso dire? Voglio dire che in tutto questo riesco a vedere comunque un dato positivo. Il dato positivo è che noi viviamo in un paese democratico e libero, grazie a Dio, dove ci sono tante miserie da sanare, ma dove comunque queste miserie in qualche modo vengono sempre a galla, no? Sì. E ci sono invece paesi, anche vicino a noi purtroppo, dove i cittadini per lungo tempo si svegliano la mattina, leggono i giornali, va tutto bene, tutto perfetto, no? Il dittatore di turno guida il paese con estrema decisione e maestria, e poi dopo improvvisamente scoppiano le rivoluzioni, ci sono le guerre, rivolte sanguinose, eccetera, eccetera. Quindi insomma il tuo invito è: lamentiamoci sì, ma non ci dimentichiamo che c'è dove va peggio. Sì, io dico che quando vada male vada sempre così. Poi naturalmente non è che avallo assolutamente il comportamento di chi fa queste cose, però in una democrazia come la nostra la speranza è legata al tentativo di migliorare noi stessi giorno per giorno, perché ogni popolo ha il governo che si merita, no? Ha detto qualcuno qualche anno fa, ed è vero, e quindi i nostri governanti sono un po', diciamo, il campione di quello che noi siamo, quindi se noi vogliamo sperare in un futuro con sindaci migliori, con politici migliori, eccetera eccetera, bisogna fare un pochino di autocritica. Miglioriamo noi, insomma, perché giustamente non sono dei marziani, uso questa parola perché marziano però è stata attribuita a Marino, però sono una rappresentazione di ciò che siamo noi come italiani, questo ci sta dicendo Bocelli. E poi per chiudere anche una piccola riflessione sul discorso lì dell'intervento del Vaticano, discussione, insomma, il Vaticano decenni fa ha proibito già ai suoi ministri di fare politica, no? Questo è un fatto. Non ha mai proibito di esprimere delle opinioni, e io credo anche che tutti i sacerdoti che dall'altare o in qualche altro posto comunque fanno predicano il Vangelo, inevitabilmente fanno politica, perché il Vangelo è forse un modo, forse più integerrimo di far politica, insomma, sempre che uno poi rispetti nella vita le idee che propugna, insomma. No, ma assolutamente. Beh, noi la ringraziamo tantissimo, grazie davvero maestro. Io non so. Non mi date del tu perché. No, vabbè, ti ringraziamo tantissimo. Quando ti viene il ghiribizzo, prendi il telefono e c'è stato il panico, giustamente Oscar, perché ci ha chiamato Bocelli come ascoltatore. No, ma sarà lui, non sarà lui. E Cruciani con i suoi scherzacci. Invece no. Grazie davvero Andrea Bocelli per essere stato con noi. E allora, caro Oscar, abbiamo qui due direttori di giornali che sono Erasmo D'Angelo. L'Unità, buongiorno Erasmo. Buongiorno. E Alessandro Sallusti del giornale Buongiorno. Buongiorno. Eccoci qua. Allora, Oscar, oggi l'Unità, la vedi qui, dice passaggio a nord-est. Dice che Renzi sulle tasse, perché prima direttore abbiamo detto che Renzi, insomma, sulle tasse non è vero che ha tagliato, si vedrà, taglierà, chi lo sa. Invece ha tagliato, sì. Intanto ha tagliato, diciamo, ha aggiunto 80 euro nelle tasche di 10 milioni di lavoratori, quello comunque è incontestabile. Non è male. Adesso le imprese, insomma, c'è un piano di taglio di tasse di 45-50 miliardi al 2018, in 5 anni, calcolando i piani bene, però voglio dire, tocca fare il mio mestiere è che dopo essermi sentito dire per 9 mesi gufo, quando poi la scorsa settimana c'è stato il riallineamento ufficiale dei dati di pressione fiscale 2013-2014 dell'Istat, il segno è più e non ci posso far niente. Quindi, però io capisco chi fa la sua bella impostazione. Ho detto sempre e ripeto, gli imprenditori non si sognavano nemmeno uno che faceva la decontribuzione di 8.000 euro per contratto l'anno, questo non c'è dubbio. Però la mia domanda è, visto che già prima delle regionali, prima che si andasse la Moretti, c'era questo stato d'animo, tanto oramai Renzi ha sfondato nel nord-est e in Veneto, poi si è visto che al voto è andata un po' diversamente. Adesso, secondo lei, le cose vanno diversamente? Tutti abbiamo visto gli applausi di Treviso, ma ha sfondato come dite voi oppure poi si rivolta e c'è il bis? Insomma, siamo prudenti. Il punto è, si prova a sfondare, perché in effetti insomma, il Veneto è una situazione complicata. Il PD ha subito una brutta sconfitta alle regionali, quindi la strada è tutta in salita. Però, diciamo, è piaciuto linguaggio molto chiaro, l'insistenza sull'importanza anche di una narrazione positiva dell'Italia. Certo. E quindi il tema delle tasse, il giù le tasse, che è sempre stato un tabù a sinistra, oggi finalmente diventa, diciamo, un brand del governo Renzi, e non è poco, ed è un passaggio importante. Ma insomma, quando Padoan dice che le coperture ci sono per ridurre le tasse, noi ci dobbiamo fidare. E non per le pensioni, però. Per... Le pensioni ancora, 2016. È stato chiaro, 2016, con i conti chiari sotto mano, allora si fa il passaggio sulle pensioni, ma è l'esatto opposto dell'annuncite, cioè non ci sono annunci, c'è un ragionamento onesto, chiaro, vediamo i conti e man mano faremo tutto quello che dobbiamo fare. Però sicuramente è un'inversione di tendenza, mi pare. Sì. Un'inversione di tendenza, lo so. Sallusti, la questione, poi parliamo magari dell'apertura che ha su Marino, lascia raddoppia, perché da lì siamo partiti, ma è il Renzi che taglia le tasse. Ieri da Fazio ha detto sono colui che ha fatto il taglio di tasse, non dico storico, ma vorrei dirlo. Sallusti ha detto che ogni euro di contribuzione in meno su qualsiasi voce fiscale è un euro benedetto, e quindi in effetti Renzi, come dire, può vantare e rivendicare di avere abbassato alcune di queste voci. Poi, come diceva Oscar Giannino, è la somma che fa il totale, non è una voce. Quindi non solo c'è un dato ufficiale che dice che la somma è maggiore, la pressione fiscale dopo un anno e mezzo di Renzi è maggiore. Certo, è spalmata su voci diverse, sono aumentate tasse comunali, la reintroduzione che Renzi ha completato, che aveva fatto Letta, delle tasse sulla casa è andata a regime, quindi la pressione è maggiore, sui risparmi sono aumentate le tasse. Adesso si parla di fare un gioco analogo, mi sembra. Lui annuncia di voler togliere le tasse sulla casa, ma c'è nell'aria il fatto di aumentare le tasse sui proprietari di case. Il fatto che tu dai in affitto una casa, una possibilità è che la tassazione sui tuoi ricavi aumenti. Quindi a un cittadino che Renzi abbia abbassato alcune voci, ma ne abbia provocato direttamente o indirettamente l'aumento di altri, insomma, il giudizio finale non può che essere negativo. Senta, direttore Sallusti, una domanda. Oggi sul Fatto Cacciari, in una delle sue non infrequenti esternazioni, fa una riflessione sul guai molto serio. Lui dice: dovunque diffuso in Italia nella struttura del PD rispetto a Renzi. Prima il direttore dell'Unità diceva: Renzi è uno che cambia i brand, e non c'è dubbio. Però dall'altra parte il partito nei territori, se uno va a vedere i sindaci, che cosa è successo in Veneto, ma non solo in Veneto, in Liguria, il dibattito aperto qua a Milano, dove un candidato del PD in quanto tale non c'è, tutti sono appesi a Pisapia, uno va a vedere i problemi del PD a Roma rispetto a Marino e poi cosa è successo in Puglia, in Campania e così via, Cacciari dice guardate, nel PD a livello territoriale ci sono ancora quelli che reggono, sono quelli dei miei vecchi tempi, Renzi non c'è riuscito. Malgrado questo, Sallusti, la destra non ne approfitta. Perché, secondo lei? Beh, perché è messa peggio dal punto di vista politico. Peggio. È messa peggio. Cioè, siamo in presenza di un quadro politico parlamentare, che è quello che vediamo questi giorni all'Opera al Senato, che non ha nessuna relazione col quadro politico reale del Paese, sia territoriale sia elettorale. Mi spiego meglio. Al Senato c'è una forza che, lo dico a spanne, vale il 20%, che è quella di NCD, che nel paese in realtà vale, i sondaggi dicono tra l'1 e il 2. C'è una forza, la Lega, che nel Parlamento vale il 2%, che nel paese dicono i sondaggi vale il 15%, e così via. Quindi il quadro politico che ci sta governando è diverso da quello che non ha nessuna relazione con quello del paese. Questo vale per la sinistra, ma vale anche forse vale di più in questo momento per il centrodestra. Addirittura vale di più. Perché negli ultimi due anni sono cambiate le cose. Però il giornale titola appunto Marino lascia e raddoppia, cioè l'idea che che Marino possa ricandidarsi. Vorrei chiederlo prima al direttore dell'unità Erasmo D'Angelis: ma Marino chi lo ha fatto cadere, Erasmo? Lui stesso, il Vaticano o Renzi? Ma diciamo, vogliamo metterla così, non è stato fortunato. Forse diciamo la spiegazione che entra nel mezzo, che perché... è il sindaco che cade per sfortuna, mi sembra un po'. È l'attitudine di Erasmo De Angelis con cui si guarda oramai un morto, un defunto con pianto, come devo dire. Il punto vero è che le condizioni politiche per proseguire con Marino ovviamente non ci sono più. E Marino, insomma, bisogna dargli anche l'onore delle armi, perché l'impegno netto, chiaro, contro la corruzione è stato evidente, così come diciamo, è stato evidente anche il lavoro interno al Partito Democratico, lo scioglimento di tutti i circoli, la polizia radicale, la fine. Ma perché, allora, perché non era più il sindaco del PD per le ricevute del ristorante? Cioè, voglio dire. No, ma insomma non è quello, è che quando non c'è feeling, sintonia, empatia, feeling con la città, insomma. Questione di questo. Feeling. Poi in ogni caso Marino se l'è un po' cercate, perché i viaggi in America, insomma. Sì, certo. Tutta la Marino Story racconta quello che ha fatto ultimamente. Molto, insomma, non era un caso, infatti, che uno dei maggiori sostenitori. Posso dire anche una cosa: mi fai dire una cosa. Ora, fare il sindaco nel 2015 è un atto eroico, farlo in una città come Roma, perché davvero hai alle spalle decenni, non anni, decenni di pubblica amministrazione. È nelle condizioni peggiori, noi siamo ancora l'ultimo paese. Ce lo diceva Sabella. Erasmo, scusami, se andiamo a vedere come nasce la candidatura Marino, lo sai meglio di me. La candidatura Marino nasce nella geniale mente dell'artefice Bettini, che nel sistema di potere PD e nel sistema di consensi del PD, 15-20 anni, è stato Dominus, una delle figure di riferimento, non l'unica, ma una delle grandissime figure di riferimento. Nasce come, diciamo così, strumento dietro il quale capire come fare per rimettere a posto il PD, che aveva enormi guai, cosa che poi quando esplode il dossier della procura diventa ancora più problematicale. Allora, diciamo in sintesi, questa sintesi giornalistica: la foglia di fico non ha coperto il guaio si è aggravato, la foglia di fico adesso viene recisa, ma il guaio resta, però, perché il problema del rapporto con i romani ce l'ha il PD oltre a Marino. No, ma ce l'ha, ce l'ha anche il PD, però il tema è il degrado evidente. Probabilmente Marino, che era un outsider fuori dalle dinamiche delle correnti del PD, insomma, probabilmente era poco esperto anche per governare, però questa è stata la sua forza, nel senso che all'inizio, nel momento in cui è esplosa Mafia Capitale, Marino era il sindaco onesto, cioè il sindaco che ha fatto pulizia, perché non ricordiamoci che noi abbiamo alle spalle poi 5 anni di governo Alemanno, dove appunto è accaduto quello che è accaduto. Quindi Roma, caos, degrado evidente, insomma il punto vero è che ora davvero bisogna non solo voltare pagina, ma trovare un city manager, una persona davvero all'altezza. Perché ormai la politica è lievemente compromessa. No, ma diceva, uno dei più sostenitori di Marino negli ultimi giorni, incredibilmente, era Alessandro Sallusti. Ma perché, direttore, hai firmato un editoriale a dire Marino rimani, perché ogni giorno di più ci toglieremo delle soddisfazioni? No, perché in Sallusti c'era anche l'istinto, ci dai dei titoli facili, secondo me. Esatto. Ma perché io credo che Marino sia... Oscar Giannino credo che conosca molto bene la tesi del cigno nero. Il cigno nero è la variabile imprevista di un sistema che fa saltare il sistema. Quindi sfugge a una logica di giudizio che si può utilizzare su altri personaggi, bravo, non è bravo, onesto, non onesto. perché Marino è il cigno nero non solo di Roma, ma il cigno nero della sinistra, è quella cosa che nessuno aveva previsto. E quindi ti piaceva, e quindi sta facendo saltare in aria un sistema che, siccome quel sistema non mi piace, ma non è che non mi piace per antipatia, mi piace anche per motivi politici, ma non mi piace perché insomma abbiamo visto che il sistema è chiaro. No, ma è chiaro. Allora Marino è il grimaldello per far saltare il sistema. Benvenuto. Abbiamo 30 secondi. Ci credi tu che si arriva a una soluzione Marchini di tutta la destra a Roma? Alfio Marchini, Sallusti. Me lo auguro. Me lo auguro perché potrebbe essere una buona soluzione. Temo che le tensioni e le rivalità all'interno del centrodestra la rendano molto difficile, se non quasi impossibile. Però, con un po' di buon senso potrebbe essere. Fermiamoci qui. Erasmo D'Angelis, grazie, direttore dell'Unità, e Alessandro Sallusti, direttore del Giornale. Grazie a maestro, Bocelli, Bocelli, che ci ha fatto questo regalo. Continuate con Radio 24, cari ascoltatori, mi raccomando. Sempre. Abbiamo ancora 20 secondi, però, caro Oscar. No, ma abbiamo 20 secondi anche per ricordare che non devo continuare solo sempre, devo continuare adesso, su, perché c'è naturalmente X24 dopo di noi, e naturalmente bisogna anche vedere, guardate, questi giorni che ci separano dalla legge di stabilità saranno un'altra occasione per capire quanto la politica è distante tra quello che dice e quello che fa. Michele Ainis di oggi, grande Michele tema. Michele Ainis di oggi. Grande Dai, tema. A domani, ciao! Alino e Giannino, è come quel gattino che di primo mattino ti viene vicino e poi...